Vangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e gli azimi, e i capi sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno ed ucciderlo, perché dicevano: «Non lo facciamo durante la festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo». Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. E alcuni sdegnati si dicevano fra loro: «Perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri». E fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avrete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». E Giuda Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Ed essi, uditolo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo. E il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la Pasqua?» Ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo, e dove sarà entrato, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza da mangiarvi la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata e pronta. Qui vi apparecchierete per noi». E i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, Gesù venne coi dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi, il quale mangia meco, mi tradirà». Ed essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno: «Son io adesso?» Ed egli disse loro: «È uno dei dodici che intinge meco nel piatto. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figliuol dell'uomo è tradito! Ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato». E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero, e disse loro: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. E Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Ma Pietro gli disse: «Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». E Gesù gli disse: «In verità io ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli vieppiù fermamente diceva: «Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi vennero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli, «Sedete qui finché io abbia pregato». E preso seco Pietro e Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere spaventato ed angosciato. E disse loro, «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». E andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre a lui, e diceva, «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». E venne e ritrovò che dormivano, e disse a Pietro, «Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole». E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e non sapevano che rispondergli. E venne la terza volta e disse loro, «Dormite pure ormai e riposatevi. Basta. L'ora è venuta. Ecco, il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, arrivò Giuda, l'uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva aveva loro dato un segnale dicendo, «Colui che bacerò è desso, pigliatelo e menatelo via sicuramente». E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse, «Maestro!» e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero, ma uno di coloro che erano quivi presenti, tratta la spada, percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio. E Gesù, rivolto a loro, disse, «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno ero fra voi insegnando nel Tempio, e voi non mi avete preso, ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute». E tutti lasciatolo se ne fuggirono. Ed un certo giovane lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul nudo, e lo presero, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì ignudo. E menarono Gesù al sommo sacerdote, e s'adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani, gli scribi. E Pietro lo aveva seguito da lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, poiché molti deponevano il falso contro a lui, ma le testimonianze non erano concordi. Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro a lui dicendo, «Noi l'abbiamo udito che diceva, io disfarò questo tempio fatto di man d'uomo, e in tre giorni ne riedificherò un altro, che non sarà fatto da man d'uomo». Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in piedi quivi in mezzo, domandò a Gesù, «Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse, «Sei tu il Cristo, il figliuolo del Benedetto?» E Gesù disse, «Sì, lo sono, e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». E il sommo sacerdote, stracciatesi le vesti, disse, «Chi abbiamo noi più bisogno di testimoni? Voi avete udita la bestemmia, che ve ne pare?» E tutti lo condannarono come reo di morte. Ed alcuni presero a sputargli addosso, e a velargli la faccia, e a dargli dei pugni, e a dirgli, «Indovina, profeta!» E le guardie presero a schiaffeggiarlo. ed essendo Pietro giù nella corte, venne una delle serve del sommo sacerdote, e veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso e disse, «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli lo negò dicendo, «Io non so, né capisco quel che tu dica». Ed uscì fuori nell'antiporto, e il gallo cantò. E la serva vedutolo cominciò di nuovo a dire a quelli che erano quivi presenti, «Costui è di quelli». Ma egli da capo lo negò. E di nuovo di lì a poco quelli che erano quivi dicevano a Pietro, «Per certo tu sei di quelli, perché poi sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare ed a giurare, «Non conosco quell'uomo che voi dite». E subito per la seconda volta il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta, «Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E a questo pensiero si mise a piangere.